24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Eccoci qui, buongiorno, sono le 6:33 minuti in punto, cari ascoltatori, benvenuti, buona settimana da Alessandro Milan. Sì, allora... non ce la conto la fila 3, Milan, sei proprio un coglione. Oh. Ma è possibile che sei un pievo così, lavori in radio, e il mondo va così. Vabbè, pazienza. Ma chi è iniziamo benissimo, ma chi è questo? Ma non lo so, ma porca miseria, ma qua la gente chiama, segreteria telefonica, vabbè, io capisco tutto. Boh, vabbè, comunque buongiorno a tutti, comunque siamo qua, sono le 6:33 minuti e siamo pronti, c'è Alessandro Longoni oggi in redazione, qui con noi dalle 6:30, c'è il nostro alpino Peter Bescapè in regia e c'è anche questo signore che salutiamo. Ma cos'è che ha detto Peter? No, ho capito bene, insomma, non lo so, me l'avete buttato dentro lì così, boh, era abbastanza insoddisfatto evidentemente di come vanno le cose qua. Sì, non ce la conto la fila 3, Milan, sei proprio un coglione. Ah, ma è possibile, ecco, che sei un pievo così, lavori in radio e il mondo va così? Vabbè, pazienza, ci sono cose peggiori d'altronde. Vabbè, possiamo aprire il nostro Parlamento, riapre anche questa settimana il caffè, volentieri a tutti quanti, e c'è sempre io non lo voglio il caffè della mamma. continui che forse hai preso anche tu i suoi favori, strozzate col caffè della Minetti, noi non lo vogliamo dalla Minetti. Vabbè, brutto cretino d'un Milan. Vabbè, siamo accerchiati, io devo chiedere, il clima è un po' questo. Voglio salutare subito un graditissimo ritorno, Vladimir Luxuria, buongiorno e ben svegliata, eccoci qua. Buongiorno. Siamo accerchiati, Vladimir, attenzione, perché qua avete, almeno io mi sento un po' accerchiato qua, insomma, ascoltatori che non la mandano a dire, Saluto anche Alessandro Giglioli dell'Espresso, buongiorno Alessandro. Buongiorno a tutti. Hai visto qua che clima c'è? È un po' di insulti la mattina aiutano poi danno un po' di forza, danno un po' di... Ecco, a proposito di insulti, Vladimir, sai perché ti abbiamo richiamata? Posso immaginare. Lo so, è successo questo, io l'ho detto anche in onda venerdì scorso. A questo punto, dopo questa telefonata che avevamo mandato in onda, adesso le facciamo risentire. E noi la voglio invitare tutti i giorni, così ti devi svegliare tutti i giorni. No, scherzo, non la svegliamo tutti i giorni alle 6:30, per carità. Però è successo questo, è arrivato in segreteria telefonica. L'espressione della civiltà estrema e somma italiana di un ascoltatore che ci ha detto questo. Io non ce l'ho contro gli omosessuali, ho un mezzo parente che è di quella sponda lì, però considerato il fatto che tu continui sempre ad invitare quell'invertebrato di Lussuria, non starai passando anche tu dall'altra parte? Buon lavoro! Eccoci qua, allora io quando l'ho mandato in onda, benvenuto, ho detto, caro Milan, sì, benvenuto, sì, e siamo usciti dal medioevo, forse potremmo uscire dal medioevo quando telefonate come queste non arriveranno più, però c'è anche questo, Vladimir Luxuria, succede anche questo. Che diceva questo ascoltatore? Che bisogna sempre diffidare da quelli che cominciano un discorso dicendo io non ce l'ho contro gli omosessuali, però sospensivi, perché poi arrivano questi, però vedo che anche nei tuoi confronti non sono tanto, vabbè. Riempiono di insulti, sì. Diciamoci la verità, che forse c'è una proiezione freudiana, cioè ci sono delle persone che pensano che se qualcuno dà spazio a delle persone di un orientamento sessuale diverso, un'identità di genere diversa, siano persone che insomma tendono verso l'omosessualità, insomma, come dire che Obama sia gay in qualche modo, cioè, che dobbiamo fare? Sono forse persone, loro sì, che non hanno risolto i propri problemi sessuali, forse mi sento di dire questo, non... e mi fanno ancora di più sentire che le battaglie che si portano avanti per un'Italia più aperta, più europea, più occidentale e meno talebana siano battaglie assolutamente sacrosante. Devo dire che dopo che abbiamo mandato in onda questa telefonata giovedì, sono arrivati in segreteria telefonica invece tantissimi messaggi di solidarietà a Vladimir Luxuria e non solo, di condanna nei confronti di questo signore che ha lasciato questo. Io quello che posso fare è quando vorrà e quando vorrai, i microfoni sono sempre aperti qui a Radio 24, come sai, per l'intelligenza delle opinioni che esprimi, però purtroppo insomma c'è questa gente qui, Giglioli, che dobbiamo fare, che dobbiamo commentare? Ma io gli risponderei sì. Di sì che io cosa? Che sta passando dalla trasponda, sì. Io gli risponderei tranquillamente di sì, così siamo così più sereno, no? Sì, sì, siamo tutti omosessuali, siamo tutti negri, ebrei, eccetera, eccetera, cioè assumersi in prima persona l'identificazione con la vittima di turno tra di sì, sì. Ma no, voglio dire, ma cioè, io ripeto, quando si riuscirà a capire e quando arriveremo in un paese in cui non ci interessa nulla delle persone che uno si porta a letto, in compagnia, al cinema, in vacanza, cioè, forse cominceremo a uscire dal medioevo, ma vedo che evidentemente non facciamo un po' fatica. A proposito, avete fatto pace con Marino, Vladimir Luxuria, che non è venuto domenica, credo sabato, alla sfilata, e vi siete un po' arrabbiati. Perché vi siete arrabbiati? Non può starsene a casa sua? Un po' ci aspettavamo che venisse al Pride, che cavolo, Marino, appena eletto sindaco, sarebbe stato un buon segnale, no? Però insomma, vabbè, ha scritto la sua lettera di vicinanza, poi c'era comunque tutta la rappresentanza del Consiglio Comunale, e non vogliamo stare lì a dire ad avercela con lui insomma per tanto tempo. Adesso ci aspettiamo fatti concreti, sì. Anche per esempio, anche Rutelli aveva sfilato al Pride al 94, poi però non è che il fatto che avesse sfilato poi lo ha portato insomma ad essere particolarmente amichevole nei nostri confronti. Quindi, insomma, ma lui ha detto, io ho detto, sono stanco, voglio stare in famiglia, questo che non è, c'è stata l'elezione da pochi giorni, sarà stato stressato, cioè non è legittima questa cosa, dice sono stanco e che devo fare. Però sai, c'erano una settimana di festeggiamenti il Pride, avrebbe potuto venire anche un altro giorno se avesse voluto, un po' come hanno fatto poi la IDEM, la ministra delle pari opportunità, sì, e la Boldrini, che anche loro non sfileranno al corteo di Palermo al prossimo Pride nazionale sabato prossimo, però insomma hanno deciso di partecipare a un evento collaterale all'apertura. Però insomma, detto questo, aspettiamo fatti concreti, soprattutto il registro sulle unioni civili. Ah. A Roma è importante, c'è a Milano, c'è a Genova, c'è a Pisa, c'è a Palermo, ed è giusto che anche a Roma ci sia. Anche a Roma ci sia. Giglioli, così chiudiamo questa polemica che ha tenuto un po' banco nel weekend, ci concentriamo sulle cose tipo IVA, IMU, queste robe qui degli italiani. Ha fatto bene, ha fatto male Marino o chi se ne frega il fatto di non essere andato? Io come elettore di Marino e come cittadino di Roma sarei stato contento se mi avesse rappresentato in una manifestazione contro le discriminazioni a favore di dei diritti di una minoranza. Non sono stato affatto contento che abbia voluto riposarsi. Io capisco che dopo una campagna elettorale così aspra sia stato necessario pigliarsi qualche ora di riposo, però voglio dire, hai voluto la bicicletta mopedale. Sì, ma il tema è, comunque, tu ci leggi qualcosa nel fatto che non sia andato? Perché questa è la questione politica, cioè se veramente non è andato perché era stanco. Ignazio, non ci leggo niente se non una stanchezza, probabilmente è un errore di valutazione e di superficialità. Credo che debba rimediare. Adesso in qualche modo ha ragione Luxuria, nel senso che questo errore lo pone in condizione di rimediare con dei fatti, penso anche a delle campagne, perché come emerge dalla tua telefonata e come emerge anche dalla nostra vita quotidiana, il problema maggiore è proprio la società, è quella parte di società che, come dici tu, Milan sta nel Medioevo, no? Qui a Roma darci del frocio è ancora un insulto. E servono delle campagne che in qualche modo smuovano la gente dal basso, più ancora che delle leggi dall'alto che pure sono prevenute. Certo. Vabbè. Allora, in tutto questo il governo ha fatto il decreto del dire o del fare, cioè loro lo chiamano decreto del fare, però io lo chiamo il decreto del dire, perché per ora è il decreto del dire, sai, si fa il decreto legge, poi adesso va convertito in Parlamento e vediamo un po' cosa ottengono. Qualsiasi cosa succeda, io l'ho detto, l'ho twittato 20 giorni fa, qualsiasi cosa succeda vedrete che Letta dirà questo governo è più forte, cioè dopo le elezioni amministrative ha detto questo governo delle larghe intese è uscito rafforzato, che non si capiva perché, cioè da una parte il PDL era crollato all'amministrativa, il PD aveva vinto tutto, però è rafforzato. Ma i treni in autogeno, Sì, oggi leggo la Stampa, prima di copertina, prima pagina, Letta, governo più solido, ma perché, cioè ogni giorno, qualsiasi cosa succeda, Vladimir, ogni giorno, adesso il giorno in cui dicono attenzione forse c'è il ribaltone, succede questo, l'IMU e l'IVA non riescono a dare i soldi, cioè l'IVA non riescono a bloccare l'aumento, l'IMU non lo restituiscono e quindi crolla il governo e attenzione si profila l'idea, ha detto Bersani, di una nuova maggioranza, potrebbe, mica è detto che si vada a votare, potrebbe esserci PD, SEL e i dissidenti del Movimento 5 Stelle. Letta cosa dice? Il governo è più solido, Vladimir, qualunque cosa succeda è sempre più solido. Adesso non per ritornare sullo stesso argomento, però insomma sono un po' come quelli che dicono ossessivamente io sono etero, a me piacciono le donne e voi siete froci, poi come questo dubito, quando uno tende a ribadire sempre un concetto in maniera ossessiva forse c'è qualcosa che non va su questa solidità, secondo me qualcosa cova. Io sono stata una che non ha visto di buon occhio l'alleanza PD-PDL, assolutamente no, e non mi sento rappresentata da Letta che siede accanto ad Alfano, però detto questo, secondo me oggi se il PD decidesse di tradire, tra virgolette, l'alleanza col PDL e fare l'alleanza col Movimento con quelli che ci sono del Movimento 5 Stelle e SEL, secondo me dall'opinione pubblica potrebbe essere percepita come un tradimento e sarebbe forse, non lo so, un segnale negativo per gli elettori. Lo dico, diciamo, io vorrei, mi piacerebbe, era quello che speravo, Bersani ci ha fatto, ma prima, provato fino alla fine, però dopo aver fatto adesso questa alleanza, tornare indietro sarebbe solo un segno di tradimento. No, appunto, due mesi fa, non so, Giglioli, due mesi fa era quello a cui alcuni italiani o molti italiani guardavano, forse adesso sarebbe il ribaltone all'italiana, ma come? Non ci sei riuscito prima, ma fai le larghe intese, poi aspetti che alcuni del Movimento 5 Stelle forse se ne vanno via e fai il ribaltone, ma che è? No, non sarebbe una bella operazione, io lo dico da persona che ha guardato con un certo interesse la possibilità di cambiare maggioranza in questo paese, non sarebbe una bella operazione perché si basa su fondamentalmente sul cosiddetto scilipotismo, sì, mi piace o non piace, cioè sulle scissioni, non sul voto della gente, si basa su manovre di corridoio, sul dalemismo se preferiamo. Io però non credo che si vada verso quella direzione, credo che sia un bluff. Un bluff. Un grosso bluff perché il PD in questo modo aumenta il suo potere contrattuale nel momento in cui il PD può dire guarda che ti lascio domani mattina per andare con quell'altro, sì, certo, diventi più forte politicamente, più infatti forte, oggi Franceschini sul Corriere, quindi potremmo mettere anche un franceschinismo, dice così in un'intervista sul Corriere della Sera, attenzione, da Bersani nessuna bordata ma una constatazione, le difficoltà nel Movimento 5 Stelle sono sotto gli occhi di tutti, può essere che un'altra maggioranza diventi numericamente possibile. Oh, e stanno a fare il ribaltone, oppure la minaccia, non so. 24 mattino. Mancano 4 miliardi per l'IVA e 4 miliardi per l'IMU. Poi c'è il presidente della Corte dei Conti che dice ci sono 60 miliardi di corruzione all'anno, ci sono 120 miliardi di evasione all'anno. Ma perché non cambiano lavoro questi qua? Mi trovo 8 miliardi con 60 miliardi di corruzioni all'anno. O dicono loro, mica gli altri. O dicono loro. Salve Mira, dico agli italiani svegliatevi, facciamo la rivolta fiscale, mandiamo a casa tutti questi ladroni, non se ne può più di sindacati, di gentaglia che mangia le nostre spalle. Il popolo non ne può più, non ne può più e finirà sicuramente come in Turchia. Ne riparleremo, caro Mela, ne riparleremo. Ciao Alessandro, chiamo dal futuro, non dovete preoccuparvi, abbiamo risolto tutti i problemi italiani, la capitale adesso è a Bolzano, i parlamentari sono 100, parlano solo tedesco, il presidente del consiglio e i ministri sono islandesi, corruzione zero. Da Sicilia a 20 dipendenti regionali. Ciao. Buongiorno signor Mino, il Bastiano da Foggia. Stamattina sono ingraziatissimo. Mettiamo mano una volta per sempre ai grandi ricconi, ai grandi evasori. Dite al sacco Manni di mettere le mani nel sacco. I parlamentari e governatori sono tutti amici dei ricchi e la zappa di 7 chili sui piedi non se la danno. Signor Milan, esca allo scoperto, altrimenti lei fa parte di quei grandi signori. La zappa, torna la zappa. Siamo con Vladimir Luxura e Alessandro Giglioli, quello che chiama dal futuro Giglioli. Io ho passato un'ora a ridere venerdì. Quello con la voce. È meraviglioso, adesso devi mandare l'integrale, Mila. Cioè, anche su internet, manda l'integrale. Con la voce elettronica, la capitale è Bolzano. I ministri parlano islandese. Straordinario, i dipendenti della Sicilia sono 20, cioè, ma veramente uno scenario futuro e futuribile che veramente ci ha fatto piegare in due dalle risate. Vabbè. La questione effettivamente è questa, sulla questione IVA, IMU, eccetera. Anche oggi il Corriere fa i calcoli, ma lo Stato spende al netto delle pensioni 350 miliardi all'anno, 300 la spesa dello Stato al netto delle pensioni, che quelle sono intoccabili, 350 miliardi, ma è possibile che non si trovino 8 miliardi da rosicchiare qua e là? 8 miliardi su 350 e continua a dire non ci sono i soldi, viva l'IMU, non ci sono i soldi, Alessandro, non ci sono i soldi, che dobbiamo fare? Questo è... Vuoi che commenti la mitica manovra degli 80? Non so, ma 350 miliardi è una manovra abbastanza, come dire, mediatica, con tutto il rispetto per Enrichino che ci ha provato, nel senso che ha cercato di farlo all'interno dei suoi confini, in cui deve dare retta al PD, deve dare retta al PDL, deve dare retta a Scelta Civica, deve dare retta a Saccomanni, deve dare retta probabilmente anche a tutti, sì, i poteri attraverso i quali è arrivato a Palazzo Chigi, e fa delle piccole cose, sono degli accorgimenti che sono per carità benvenuti, che poi gonfia come se fossero, sì, la grande riforma. Sì, ma perché non si trovano questi soldi per evitare l'aumento dell'IVA? Ma non si trovano perché ci sono, adesso io non sono un economista, però ormai il dibattito sono anni che va avanti su questo, ci sono le strade possibili, sono tutte strade molto più radicali, che passano dallo stampare banconote, non lo possiamo fare, all'aggredire la ricchezza privata. In Italia abbiamo una delle, ma ridurre un attimo la spesa pubblica, ma un minimo, voglio dire, ma ho avuto Bondi che ha fatto la spending review, non è che sia andato molto, molto avanti nel taglio delle spese, le vie sono sempre quelle, no? Qualcuno dice di tagliare le spese militari 20 miliardi l'anno, 20 milioni di euro l'anno, e così via. Le vie sono infinite. Le vie sono infinite, ma non si fa. Ma oppure, non so, anche Vladimir, un altro ascoltatore, diceva: 120 miliardi di evasione all'anno stimata. Ma è possibile che non si riesce a ridurla a 112 miliardi e quindi si trovano quegli 8 miliardi che servono? Cioè, sono cose. Sì, no, però no. Posso dire una cosa brevissima. Sì. Dietro ognuna di queste scelte c'è una scelta politica precisa. Che se tu riduci la spesa militare piuttosto che aggredisci la spesa pubblica alle regioni, piuttosto che le pensioni, sì, piuttosto che stampare, siano delle scelte politiche. Beh, certo. Che possono piacere o non piacere. Quando c'è un governo che di scelte politiche non ne vuol fare perché c'è dentro tutto il contrario di tutto, succede questo. Si va per accorgimenti. Cioè, secondo Giglioli, Vladimir Luxuria, le larghe intese sono un po' il freno al poter fare qualcosa, perché ognuno vuole frenare su quello che vorrebbe fare l'altro. Intanto oggi si paga l'IMU per le seconde case, per i negozi, per gli alberghi, e i negozi e gli alberghi, insomma, qualche problema ce l'hanno in questo periodo anche nel sostenere questa spesa, con in più anche questa incognita se si pagherà o meno, diciamo, nei prossimi mesi l'IMU anche sulla prima casa, che quindi tutti quelli che devono fare delle previsioni di spese, insomma, si trovano un po' Così, certo, lo Stato deve ridurre le spese, gli sprechi direi, sicuramente non quelle di servizi di utilità sociale. Poi tutta la questione dell'IMU per quello che riguarda la proprietà, le proprietà del Vaticano che non sono destinate a uso religioso è stato completamente dimenticato, abbandonato, nessuno ne parla più, insieme sicuramente una lotta all'evasione fiscale e anche a queste spese militari, insomma si è tanto parlato dell'inutilità di questi F-35 che non servono neanche come difesa. E noi cosa abbiamo fatto? Tac, abbiamo speso soldi per gli F-35. Lo so. Ma no, ma infatti, ma tutti, allora, tutti gli italiani sembrano avere una ricetta abbastanza a portata, facile, e invece anche oggi il ministro Zanonato Repubblica dice l'IVA mi sa che aumenta. Siamo nelle mani di Saccomanni, speriamo in un miracolo. In un miracolo, ma come in un miracolo? In un miracolo, ha detto, speriamo in un miracolo. Vabbè, grazie Vladimir Luzzurri, Alessandro Giglioli. Sentiamo in chiusura Silvio Berlusconi, le larghe intese speriamo che durino. Ho fatto i complimenti ai nostri ministri che si sono battuti per introdurre in questo primo decreto del fare le misure che avevamo sostenuto nella nostra campagna elettorale. Credo che questo sia davvero un buon inizio e che si dovrà e si potrà continuare su questa strada. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Alle 7:22 minuti, ben ritrovati, eccoci qua pronti a leggere i giornali. Se vi siete aggregati ora, come al solito, debosciati d'Italia, buongiorno, ben svegliati, andate a lavorare, a produrre, che da qualche giorno, da un paio di giorni, quello che fate non dovete pagarlo come tasse, ve lo tenete. Da 3 giorni, no? È passato, se non sbaglio, il giorno fatidico per il quale non lavorate più per lo Stato, ma lavorate per voi e per le vostre famiglie. Allora, noi oggi parleremo di carcere, perché domani, è stato rinviato a domani, discuterà il governo di una proposta che in sintesi estrema è questa: dar la possibilità per risolvere il problema delle carceri affollate di scontare a casa, quindi a casa come detenzione domiciliare, e invece del carcere, per tutti i reati che comportano fino a 6 anni di pena di massima, 6 anni di pena massima. Per quei tipi di reati, detenzione domiciliare invece che in carcere. Già vi sento, cari ascoltatori, mi pare di sentirvi, cari ascoltatori. Sì, 6 anni di carcere, a casa invece che in carcere. Questa è una delle ipotesi che si sta discutendo. Ne parleremo alle 8:15. Ora andiamo a leggere i giornali. Questo lunedì 17 giugno, intanto i titoli per il Sole 24 Ore: reati, l'anno nero di furti e scippi, sono i dati dei reati del 2012. La politica per il Corriere della Sera: Berlusconi spinge il governo. Repubblica: Zanonato, IVA, difficile evitare l'aumento. La Stampa: Letta, governo più solido. Il Giornale: l'arma segreta di Napolitano. Il Messaggero: arriva al tutor salva imprese, è un'analisi anche del decreto del cosiddetto fare, che per ora è del dire. L'Unità: Letta, giudicatemi dai fatti, mentre il Secolo XIX, Berlusconi blinda l'asse PDL-PD, questo è il titolo di apertura di alcuni dei titoli, poi vedremo gli altri. Voglio subito partire con una notizia che certamente è di quelle da mani strette sul volante, anche se so che le mani le avete strette sul volante già sulla notizia delle carceri, ma mani strette sul, quella l'approfondiremo alle 8:15, mani strette sul volante per leggere quello che il Messaggero propone a pagina 9, Camera, solo 3 le leggi approvate, è un focus dei primi 3 mesi di lavoro che Ettore Colombo fa sul Parlamento. Inizio legislatura con l'handicap del pareggio elettorale, ma la settimana di lavori continua a chiudersi il giovedì. Ah, tra l'altro c'è questa cosa, effettivamente anche un ascoltatore ce l'aveva mandato in segreteria telefonica, ma non avevano detto che lavoravano fino a venerdì. era il primo impegno che si sono impresi, si sono presi la presidente Laura Boldrini e il presidente Piero Grasso a Ballarò come prima, lavoreremo fino al venerdì. Finora continuano a lavorare fino al giovedì, ma evidentemente c'è tempo per cambiare i regolamenti parlamentari. Comunque, il Parlamento, mozioni di fiducia al governo, una, proposte di legge di iniziativa parlamentare, una, conversione di decreti legge, due, disegni di legge di iniziativa governativa, zero, totale dell'attività, tre. È decisamente scarno il bollettino ufficiale facilmente reperibile sul sito della Camera dei Deputati del lavoro svolto dai 630 onorevoli in quasi tre mesi di attività. Bilancio davvero magro. Qui c'è da aprire una parentesi, non è che il lavoro si produca solo col risultato finale. Certo, ci sono tutte le discussioni, questo certamente. Chiusa parentesi, ma insomma stiamo leggendo dall'articolo del Messaggero a pagina 9 di Ettore Colombo. Dall'inizio della legislatura sono state 30 le ore di seduta dell'Assemblea, in totale l'Aula è stata impegnata per 108 ore e 55 minuti di seduta, di cui però solo 28 ore e 38 minuti per l'attività legislativa vera e propria, mentre il resto del tempo se n'è andato tra sedute per attività di indirizzo e controllo, 44 ore, e per altre attività di esame, 35 ore. A voler parlare di ciccia, complice il fatto che solo il governo può autorizzare leggi di spesa e che una legge deve per regolamento stazionare buoni 40 giorni in commissione, il conto è presto fatto. Il decreto sulla sospensione dell'IMU, il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali, il pagamento dei debiti scaduti dalla pubblica amministrazione, il decreto salute e la ratifica del cruciale accordo Italia-Lituania, come dell'accordo Italia-San Marino approvato fresco fresco dall'Aula l'11 giugno scorso. Insomma, questi alcuni dei dati analizzati poi più nel dettaglio da Ettore Colombo, il Messaggero, per dire un lavoro non proprio clamoroso. Mi voglio concentrare invece sulla questione furti, reati. I dati pubblicati dal Sole 24 Ore oggi in prima pagina sono anche questi un sintomo della crisi. Ci sono tutte le classifiche sui reati, una denuncia ogni 10 secondi, pagina 3 del Sole, Rossella Cadeo. Più di 5 reati al minuto, 320 all'ora, quasi 7.700 reati al giorno. 7.700 reati al giorno per 365 giorni, questa è la media. In realtà sono 2,8 milioni i reati registrati nel 2012 contro i 2,76 milioni del 2011, 36.000 in più, dunque un trend in rialzo, quindi negativo nel senso che si parla di reati, però non di troppo, diciamo, siamo in linea come reati denunciati tra il 2011 e il 2012. Che cosa però aumentano della tipologia dei reati? Aumentano moltissimo alcuni reati come i furti in casa, più 15,5% nel 2012 rispetto all'anno prima, gli scippi più 13%, i borseggi più 11%. Questa è la tipologia, ci sono le classifiche, la provincia di Milano per ogni 100.000 abitanti rimane in testa con 8.438 reati anche per 100.000 abitanti, 8.438 anche se è in calo, meno 2,3% rispetto all'anno precedente, ma rimane in testa come province. Prima Milano, poi Rimini, Bologna, Torino, Roma, Genova, Firenze, Ravenna, Lucca, Prato. Queste le prime 10 posizioni di una classifica di cui non andare proprio orgogliosi. A proposito di reati, mi ha molto colpito la notizia che a pagina 17 del Corriere della Sera viene fornita e viene descritta da Gianni Santucci. Una signora di 80 anni succede a Genova o in provincia di Genova, Piccapietra. Furto di cibo. È stata condannata per avere rubato un pezzo di carne, due scatole di biscotti, una bottiglia piccola di liquore a 2 mesi e 20 giorni. Per carità, lei davanti al giudice ha detto: a stento riesco a comprarmi il pane, le poche lire di pensione non mi bastano, i soldi per i biscotti e la carne non ce li avevo. Certo, vi sento già dire: beh, ma insomma anche quella bottiglietta di liquore è davvero un bene così necessario per una persona che fatica ad avere i soldi per per comprare un pezzo di pane o della carne. Certo, racconta il Corriere, solo a Genova le denunce per furto di generi alimentari sono aumentate e sarebbero aumentate del 20%, tra queste anche quella a carica dell'ottantenne pensionata di Castelletto, lei che secondo sentenza è una pregiudicata e che impone un po' a tutti di farsi una domanda: quella donna è davvero una ladra? Conclude così l'articolo del Corriere della Sera. Certo, furto di cibo, condannata una ottantenne, 2 mesi e 20 giorni a una vedova per 2 pacchi di biscotti, una fetta di carne e un liquore. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Eccoci, le 7.36 minuti, anzi 7.37 minuti. Allora, oggi si apre il G8 in Irlanda del Nord e è il primo G8 per il Premier Enrico Letta. Si parla di situazione di crisi internazionale, certamente con la Siria in primo piano, ma anche di economia. Di come far ripartire l'economia, per esempio i grandi vogliono dare una svolta sull'evasione e l'elusione fiscale, sulla crescita, la corruzione, eccetera. Certo, però i giornali italiani come la pongono? In maniera un po' provinciale, cioè l'aspetto con cui parte Enrico Letta, secondo tutti i giornali, è un po' il tema che ha tenuto banco in politica nell'ultimo weekend, vale a dire il rischio che ci possa essere un ribaltone, perché c'è stata questa intervista di Pierluigi Bersani che ha detto: se dovesse cadere il governo non è detto che si vada a votare, qualcuno guarda ai dissidenti del Movimento 5 Stelle che potrebbero uscire, ha fatto 2 conti, ma insomma PD più SEL più quelli del Movimento 5 Stelle che ci stanno, quasi quasi quella potrebbe essere una maggioranza numericamente sostenibile e quindi un rischio di ribaltone. Allora, ieri Berlusconi ha detto anche in un'intervista, l'abbiamo sentita anche alle 6.30, Berlusconi blinda l'intesa PDL-PD, cioè dopo il decreto del fare, spero davvero che questa collaborazione possa durare, è impossibile non trovare le risorse per IMU e IVA, insomma un Berlusconi che tiene duro su questo. E anche in un retroscena del Corriere della Sera firma Monica Guerzoni, a pagina 3 c'è un Enrico Letta, il titolo è: il Premier porta al G8 l'emergenza crescita e chiarisce con Bersani. Letta appunto avrebbe detto: Berlusconi vuole andare avanti, un piano B in questo momento non ce l'ha nessuno. E racconta il Corriere: Bersani e il Premier Letta si sono anche sentiti. Pierluigi ha spiegato a Enrico che il suo obiettivo era piantare paletti a sinistra in vista del congresso del PD, puntellare allo stesso tempo il governo, con la frase: non ho alcuna intenzione di spodestarti da Palazzo Chigi. Letta ha capito e ha archiviato il caso. Insomma, un Letta che è molto soddisfatto per l'esito del Consiglio dei Ministri che ha portato il via libera al decreto del fare, questo è, così è stato soprannominato. Le tensioni ci sono, ma come dice anche la stampa, la posizione di Letta è: ora il governo è più solido. Il governo è ora è più solido, Letta Berlusconi, così titola pagina 4 la stampa. Epifani anche dice, il segretario del PD, provvedimenti vanno nella direzione giusta. Sta di fatto che Repubblica mette l'accento sull'inizio di una settimana difficile per Berlusconi, perché apre 15 giorni di fuoco, si aprono da questa settimana sul fronte giudiziario. Liana Milella raccoglie tutte le date, intanto si comincia il mercoledì 19, quando la consulta deciderà su un contestato legittimo impedimento del 1 marzo 2010 al processo Mediaset, per il quale Berlusconi è già stato condannato in appello. Poi lunedì 24 si chiude a Milano il processo Ruby, con la sentenza di primo grado. Il 27, doppio appuntamento, a Napoli parte l'udienza preliminare per la compravendita presunta del senatore De Gregorio, mentre a Roma in Cassazione ultimo atto per la vicenda Mondadori Fininvest. Un Berlusconi che però dice, secondo Repubblica: so che mi stanno per dare dei dolori, ma questo non deve avere conseguenze sulla tenuta del governo. Insomma, diciamo che ha tenuto banco questa ipotesi del possibile ribaltone, possibili numeri. Beh, certo, è un'ipotesi che ancora oggi viene portata avanti dal ministro Franceschini, viene intervistato dal Corriere della Sera. Il lavoro viene prima di IMU e IVA, racconta Franceschini sulle situazioni economiche, ma a un certo punto nell'intervista di Andrea Garibaldi il punto interessante politico è questo. Alla domanda: Bersani ha fatto capire che se il governo cadesse non si voterebbe, i renziani l'hanno definita una bordata per Letta. Sentite come risponde Franceschini: nessuna bordata da Bersani, solo una constatazione oggettiva. Le difficoltà nel Movimento 5 Stelle sono sotto gli occhi di tutti. Può essere che un'altra maggioranza diventi numericamente possibile. In questo momento nessuno sembra voler andare alle elezioni e, siccome credo alle parole dette, tutti sostengono il governo, da Renzi a Berlusconi. Insomma, Franceschini fa capire che effettivamente non è una bordata al governo, però effettivamente, contando anche le difficoltà del Movimento 5 Stelle, i numeri per una maggioranza diversa da quella attuale potrebbero anche esserci. Ecco perché si spiega il titolo di apertura del giornale: l'arma segreta di Napolitano contro i traditori. C'è un editoriale di Vittorio Feltri, il titolo è questo, il sottotitolo: il Colle non accetterà il ribaltone di Bersani coi grillini, piuttosto Napolitano si dimetterà beffando i congiurati. Ovviamente questo è uno scenario molto futuribile. Ci domandiamo, scrive Feltri a pagina 7, come possa illudersi Bersani di ribaltare la situazione a proprio piacimento. Salvo imprevisti, il Quirinale non vorrà neanche sentir parlare di rimescolamento della maggioranza. Qualsiasi sommovimento si verificasse all'interno del Movimento 5 Stelle, il Quirinale terrebbe la barra dritta e farebbe di tutto per dare continuità all'esecutivo Letta, appoggiato dai due schieramenti tradizionalmente avversari. Non sarà di certo Re Giorgio a benedire un ribaltone provocato da Bersani. Vabbè, questo è più che uno scenario politico, anche un auspicio, mi pare di leggere, da parte di Vittorio Feltri. Ma insomma, qui andiamo avanti, molto avanti, con la fantapolitica, o chissà se invece non è fantapolitica, anche perché a giorni si verrà alle strette sulle cose che contano davvero, e cioè la tenuta del governo di fronte per esempio a un possibile aumento dell'IVA, per cui Berlusconi dice ancora ieri: bisogna trovare le risorse, bisogna trovare i soldi per bloccare questo aumento dell'IVA. Flavio Zanonato, il ministro più richiesto anche nelle interviste per cercare di strappare qualcosa sull'IVA e l'IMU, fa un'intervista a Repubblica. Roberto Mania lo intervista, la trovate a pagina 7. È difficile evitare gli aumenti decisi quando governava il Cavaliere. Insomma, ripete come un mantra quello che sta ripetendo in questi giorni, e cioè dice Zanonato: cosa ho detto io? Sono stato accusato di aver rotto l'unità con l'uscita sull'IVA. Ma come? È come quando uno gioca al totocalcio: sarebbe felice di vincere, nello stesso tempo è preoccupato di non vincere. È una contraddizione? Io auspico che si possa bloccare l'aumento dell'IVA introdotto dal governo Berlusconi in un momento di estrema gravità, ma sono allo stesso tempo preoccupato per le risorse. Così Zanonato nel punto essenziale dell'intervista a Repubblica, cioè la questione dell'IVA. Comunque dice: la palla è a Saccomanni, il ministro dell'economia. Non è che io non voglia bloccare l'aumento dell'IVA, dico che è molto difficile trovare le coperture visto il poco tempo a disposizione. Comunque Saccomanni è impegnato a farlo, mi auguro davvero che ci riesca. Questa è la posizione di Zanonato. A proposito di risorse, ma tutti gli italiani, anche della nostra segreteria telefonica, si chiedono: ma com'è possibile non trovare 8 miliardi, 4 miliardi per scongiurare l'aumento dell'IVA e 4 miliardi per eliminare l'IMU, quando, che ne so, ci sono 120 miliardi di evasione fiscale stimata? E com'è possibile? O com'è possibile, come raccontava ieri il Corriere e anche oggi nell'editoriale di Enrico Marro, in uno Stato che spende 350 miliardi di euro netti, al netto delle pensioni, ogni anno di spesa pubblica, 350 miliardi, non si possono risparmiare 8 miliardi per far fronte a questo IVA, scongiurare l'aumento dell'IVA e abolire l'IMU? Buona volontà e vecchi riflessi, questo è il titolo dell'editoriale di Enrico Marro in prima pagina del Corriere della Sera, e appunto si parla del decreto del fare, con tutto quello che potrebbe portare di positivo. Ma poi è auspicabile, dice Marro, continuare con coerenza a trovare risorse, questa volta denari sonanti per le scelte più difficili. Servono svariati miliardi per sciogliere tre nodi ineludibili: l'IVA, l'IMU e gli incentivi delle assunzioni dei giovani. Poiché non ci sono soldi per far tutto, bisogna partire dalle cose più urgenti. Come hanno scritto ieri Alesina e Giavazzi, ogni anno lo Stato spende 350 miliardi di euro al netto delle pensioni. Possibile che non si riesca a trovare qualche miliardo per coprire IVA e IMU? possibile se il tesoro continua ad essere sommerso da richieste dei partiti di nuove ingenti spese da coprire in qualche modo, ma mai con tagli di spesa e spesso con nuove improbabili tasse su sigarette, alcolici, giochi e via dicendo. Una considerazione analoga si può fare anche sul lato delle entrate. Sappiamo che ogni anno ci sono almeno 120-150 miliardi di euro di tasse evase. Possibile che non si riesca a recuperarne 4, 6, 8 in più di quanto fatto finora? Il Corriere Economia spiega, per esempio, scrive il Corriere, che ci sono 129 banche dati che, se fossero incrociate tra loro, permetterebbero una lotta più efficace all'evasione. E il dato di fatto è che si continua a dire non ci sono i soldi per scongiurare l'aumento dell'IVA a luglio. Ma due dati da Corriere Economia e il Secolo XIX, da cui ripartirò dopo il traffico, fanno capire, insomma, che c'è qualcosa che non va in questo paese. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Ma che è questo, il panettiere dell'informazione? Ma panettiere a chi? No, ma mica, anzi no, bello, ho le mani in pasta. Vabbè, le 7:48 minuti, il panettiere dell'informazione. Allora, il Corriere Economia. Troppi veti incrociati, l'elettrodotto resta al buio. Una storia, Sergio Rizzo la racconta in prima pagina. Con questa domanda: questo paese è in grado di realizzare opere pubbliche con tempi e costi ragionevoli? E non parliamo del ponte sullo stretto di Messina, parliamo di un elettrodotto che eviti a una delle regioni italiane con maggior deficit energetico, cioè il Veneto, rischi di blackout. Questa domanda viene spontanea per la storia di un elettrodotto che Terna avrebbe dovuto costruire in Veneto tra Dolo e in una frazione di Padova, ed è stato tutto bloccato da chi? Dal Consiglio di Stato, investimenti per 290... Beh, c'è questa cifra miliardi che un pochino mi sospettisce, miliardi addirittura, comunque, che sarebbero stati liberati ovviamente i lavori iniziati 11 anni fa, il TAR ha dato ragione alla via libera della valutazione di impatto ambientale avuta da Ministero, Regioni, Province e Comuni. Il TAR ha detto sì, ma poi qualcuno si è messo di traverso e allora il Consiglio di Stato, in opposto, ha annullato la compatibilità ambientale. Risultato: 11 anni di lavori buttati, si sarebbero potuti fermare i procedimenti autorizzativi, tutti gli investimenti fatti, avremmo risparmiato tempo, carte bollate, un bel mucchio di soldi. Certo, tutto il rispetto di quello che si deve fare, scrive Sergio Rizzo, ma non si poteva sapere prima di iniziare un elettrodotto del genere? Ecco, questa è la tipica storia italiana, 11 anni di per costruire un elettrodotto che chissà se mai si... che chissà se mai verrà costruito. Dall'altra parte uno legge la prima pagina del Secolo XIX e va in Etiopia e dice: che c'entra l'Etiopia? Adesso questo mi parla dell'Etiopia. La rivincita dell'ex colonia, l'Italia arranca, l'Etiopia vola. Luigi Guelpa mette a confronto il PIL dell'Italia a chiusura 2012 meno 2,4% con l'Etiopia, ex colonia italiana, che ha risposto ultimamente con un più 7% di PIL. La nuova Etiopia è tutto questo e qualcosa di più. Dal 2004 al 2009 la crescita economica dell'11,5%, negli ultimi tre anni ha avuto un incremento del 7%. E come hanno fatto? La ricetta, racconta il Secolo XIX in una lunga inchiesta molto interessante che poi continua a pagina 8, è questa: la vendita e la privatizzazione delle aziende di Stato. Nel 2002 erano 250, ora sono rimaste una quarantina. E c'è tutta l'analisi economica, l'Africa che gli italiani invidiano. Ecco, mi piace accostare un elettrodotto che in 11 anni non si costruisce in Veneto per carte bollate, ricorsi e controricorsi, e l'Etiopia, paese di cui molti diranno: beh, vabbè, ma l'Etiopia. E guardate qua, leggete i dati e vedete come sta crescendo l'ex colonia italiana. Lo trovate sul Secolo XIX. Vabbè, la politica c'è ancora, il giorno decisivo, l'ho usato io questa volta l'aggettivo fatto apposta, sulla questione Movimento 5 Stelle, espelleranno o non espelleranno la senatrice Adele Gambaro? Ci sono tanti articoli, tanti retroscena, processo in streaming alla dissidente, così titola Repubblica, c'è chi dice va espulsa, c'è chi dice di no. L'articolo però più interessante sul Fatto Quotidiano del lunedì è Beppe Grillo, avrebbe detto in una riunione con Casaleggio, lo sfogo di Grillo, confesso, ho sbagliato tante cose e ora voglio iniziare una fase di autocritica e riflessione. Poi ancora Beppe Grillo, però in queste ore non parla, dice il Fatto Quotidiano, ma in questo retroscena vuole liberarsi dei quelli che definisce in attacchi di bile rami secchi. Dobbiamo lavorare con serenità e avere questi 15 tra i piedi non è opportuno, 15 persone che rovinano le altre 140. Come finirà? Quanti se ne usciranno dal Movimento 5 Stelle? Poi questo comporterà anche l'ipotesi di ribaltone politico? Questi sono gli scenari della politica di questi giorni. Minimale solo un minuto per accennare ai tanti articoli che trovate su tutti i giornali di quella che è stata la repressione molto forte, brutale in Turchia. L'abbiamo sentito anche il GR24, continuano le proteste, ma Erdogan ha detto abbiamo ripulito la piazza anche con l'utilizzo di gas urticanti. Racconta il Corriere della Sera, per esempio, di ustioni e piaghe, ci sono le foto terribili di persone con lo spray al peperoncino, ha colpito la polizia per spazzare via i manifestanti, un liquido urticante messo dentro gli idranti, è sicuramente una situazione di tensione che non si placa. Chiudo con Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, voglio 7 passaporti, a quello della Russia, a quello della Francia, forse l'ha stracciato, non lo so, l'ha ridato, alla cittadinanza del Belgio, il prossimo che voglio è dell'Algeria. Ma è impazzito, ma fermatelo, Gérard Depardieu, voglio 7 passaporti, sulla Stampa pagina 14, ne ha già 2, quello francese e russo, il prossimo sarà algerino. Algerino, ho letto l'articolo, perché l'algerino? Vai a saperlo, algerino, vuole quello algerino, forse per una sorta di revanche nei confronti della Francia, io prendo quello algerino, ma chi se ne frega poi dei passaporti di Depardieu? Eppure mezza pagina della Stampa, Gérard Depardieu, voglio 7 passaporti. 24 mattino. Quando sono le 8:18 minuti, buongiorno, ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qua oggi cari ascoltatori, dando il numero verde che do subito per intervenire in diretta, 800 24 00 24. Parliamo delle carceri italiane, già vi sento sbuffare di ma come, con tutti i problemi che abbiamo parliamo delle carceri in Italia, del sovraffollamento delle carceri. Per carità, non vogliamo volare alti, non voglio citare la celebre frase di Dostoevskij quando disse che il grado di civilizzazione di una società si misura dal livello delle sue prigioni. Vogliamo volare molto più bassi e parlare di quello che forse in settimana approderà in Consiglio dei Ministri con la decisione del governo di fare un disegno di legge. Per la verità il ministro Cancellieri vuol fare un piano di ristrutturazione delle carceri ben complesso, molto articolato, ma uno degli argomenti che è sul banco e che forse verrà discusso è questo: un meccanismo tra 10 giorni, un disegno di legge sulla cosiddetta messa alla prova, cioè la possibilità di fare lavori socialmente utili al posto di un processo e poi di una condanna detentiva, una possibilità offerta agli imputati di reati con pene fino a 4 anni più i reati a citazione diretta. E poi questo disegno di legge si è arricchito di un capitolo sui domiciliari e qui udite udite cari italiani, si prevede questo: per persone che rischiano, che fanno un reato che comportano pene fino a 6 anni di carcere, la possibilità di scontare questi 6 anni ai domiciliari, dunque a casa propria, se uno ha la casa, comunque in un domicilio, ovviamente detenzione domiciliare, fino a 6 anni di carcere, tradotti in carcere ai domiciliari, pene domiciliari. Allora, ne vogliamo parlare con Bruno Tinti, che è stato un magistrato, ora in pensione, editorialista apprezzato del Fatto Quotidiano. Buongiorno Tinti e ben ritrovato. Buongiorno a lei. Saluto anche Patrizio Gonnella, che presiede l'associazione Antigone, da anni si batte per i diritti dei carcerati, per far sapere come si vive nelle carceri italiane. Buongiorno Gonnella e benvenuto. Buongiorno. Allora, Gonnella, come puoi immaginare gli italiani sobbalzeranno a dire: ma come uno fa manco per i reati fino a 6 anni? Magari poi Bruno Tinti ci aiuterà a capire quali sono le tipologie di reati che comportano pene massime fino a 6 anni. Si va in carcere, o meglio, si potrebbe stare a casa, e qui in carcere non ci va più nessuno, Gonnella. Beh, diciamo, non è così. Diciamo, visti i tassi di affollamento italiani i più alti non solo dell'Unione Europea, ma anche dell'Unione Larga, cioè, ci batte per poco solo la Serbia. E quindi, diciamo, non è che non ci va più nessuno. In Italia un detenuto ogni 1000 abitanti abbiamo, quindi diciamo, per chi abita per esempio in un paese di 3-4 mila abitanti saprà che ci sono 3-4 persone che hanno l'esperienza del carcere alle spalle. I 6 anni famosi, in realtà noi abbiamo alzato molto le pene per tanti reati, e poi ovviamente troviamo questi meccanismi per cercare di non fargliele scontare. Per esempio pensiamo alla legge sulle droghe, dove addirittura il minimo, parlo in termini tecnici, della pena previsto nella legge Fini Giovanardi è 6 anni, e quindi diciamo anche per fatti di lieve entità, e questo fa sì che ovviamente si creino una serie di ingiustizie. Quindi quei famosi 6 anni che sembrano una enormità, per quali pene? In realtà andiamo a vedere praticamente le pene realmente previste nel codice, sono molto, per esempio il furto aggravato, la rapina, si supera quello, quindi non è detto che in realtà, io lo dico addirittura in termini critici, produrrà un effetto. Io avrei preferito interventi per cambiare le leggi ingiuste, in ogni caso. Per cambiare le leggi ingiuste. Questo però è un punto, ci hanno aumentato le pene, quindi in realtà alcuni fatti magari più tollerati prima adesso comportano pene che arrivano anche a 6 anni, e quindi è facile pensare in maniera sbagliata di dire che tutti in cavalleria, nessuno va in carcere. Però Bruno Tinti, ce li vuole ricordare, insomma, il codice alla mano, hai visto la sua memoria, la sua esperienza, quali sono queste tipologie di reati che comportano alcune tipologie di reati fino a 6 anni di carcere? Sì, però guardate che qui state commettendo un grave errore, nel senso che questi arresti domiciliari non sono previsti in relazione ai reati puniti con pene fino a 6 anni, sono previsti per le pene irrogate in concreto fino a 6 anni. Quindi voglio dire, quindi anche per reati anche in cui la pena potrebbe essere di 10 anni. Certo, il furto in teoria è punito fino a 10 anni, ma a meno che non sia il furto con scasso delle cassette della grande banca, viene punito con una pena di 1, 2, 3 anni al massimo. Tutti i reati contro la pubblica amministrazione, cioè i reati dei politici, per dirla in termini chiari, sono puniti in concreto, anche per la verità in astratto, perché arrivano fino a 5 o 6 anni, con pene inferiori a 6 anni. Una rapina, difficilmente, se non è una rapina con modalità particolarmente efferate, difficilmente viene punita con pene superiori a 4-5 anni. Quindi in realtà con questa previsione di legge in prigione non ci va nessuno. Quindi ma questo è un punto importante, lei dice non è il massimo della pena teorica, ma è quello che viene dato di condanna, cioè perché per avere 6 anni di condanna anche per reati che prevedono magari col codice alla mano fino a 10 anni, in realtà vengono dati 3, 4, 5 anni, 6 anni, e quindi questi non vanno, non andrebbero. Ancora un'altra cosa, ancora più grave, se anche lei dà a qualcuno 10 anni di prigione, quando è arrivato a 6 anni va ai domiciliari, cioè ne fa 4. Però chiariamo, Bruno Tinti, domiciliari è una detenzione, ecco, non è sì, che certo, non è che come prenditi a Piazza Farnese, ma certo, rassicuriamoci, appena prendiamo una persona che non sia un povero Cristo, quello di cui parlava Gonnella, che ha ragione da quel punto di vista, dispone della sua casa, del suo giardino, della sua villa, dei suoi amici. Ma non ho capito, ma lei che esempio ha fatto come Previti, ho capito bene, come Previti a Piazza. Ricorda che Previti certo, come... degli arresti domiciliari. Certo, come no. Dove riscontò? Nel suo appartamento all'attico di Piazza Farnese. E vabbè, se quello è il suo domicilio, che deve fare? Ma voglio dire, aveva commesso dei reati, però. Non doveva averli gli arresti domiciliari, la legge è sbagliata. Cioè, dove... Però lei cosa vorrebbe, Bruno Tinti, in questa situazione? Più carcere, cioè costruiamo più carcere e troviamo posto per chi deve starci? Ma naturalmente, scusi, lei che cosa farebbe? Butterebbe i malati fuori dagli ospedali perché non c'è posto? Forse Dostoevsky doveva andare a guardare gli ospedali prima delle carceri. Si costruiscono carceri, altrimenti il senso di impunità dilaga. La legalità di un paese va a quel paese. Gondella, questo è un aspetto che molti ascoltatori, cioè il cittadino comune, la pensa così e dice, tra l'altro, mettiamoci dentro tutto, in un momento di crisi in cui si aiuterebbe anche, se vuole, l'edilizia, posti di lavoro, investimenti, eccetera, perché banalmente la soluzione è, non è, costruiamo più posti, perché è giusto che il detenuto debba avere, non debba vivere come una sardina, ma debba avere la sua cella e avere il suo spazio, costruiamo più carceri ed ecco risolto il problema del sovraffollamento delle carceri, Gonnella. Allora, noi ci stiamo, la nostra preoccupazione, mia di tante associazioni, è di occuparsi di tutta quella carcerazione che non ha nulla a che fare con la sicurezza collettiva. Questa è la premessa, quindi possiamo tranquillizzare i radioascoltatori, nessuno vuol mettere fuori gente che, diciamo, sono potenzialmente, diciamo, pericolosi per la sicurezza collettiva e quindi occuparsi dei grandi temi della criminalità. Noi ci stiamo occupando dei piccoli temi. Prima cosa. Secondo, un detenuto costa 130 euro al giorno, quindi in realtà non è questo gran risparmio mettere in carcere, per esempio, come abbiamo oggi, circa 20.000 tossicodipendenti. Non pare un gran risparmio. Un detenuto in comunità terapeutica o affidato ai servizi per le tossicodipendenze costa 5-6 volte di meno. No, ho capito, questo sì, però se il detenuto costa, la soluzione è non tenerlo in carcere. Cioè, voglio dire... Se non è un problema di sicurezza, sì, ma un giovane consumatore di sostanze stupefacenti che contemporaneamente, in quanto marginale, vive anche di piccolo, di piccolo spaccio, ma quotidiano, poca roba, sì. Ma che soprattutto ha problemi, deve essere sostenuto, aiutato, curato. Ho capito, ma chi è che stabilisce se uno è pericoloso socialmente? Voglio dire, in teoria la percezione Il tipo di crimine va bene, però se uno pone la questione della condanna a 6 anni, qui ci ha spiegato Bruno Tinti che ci sono anche dei reati molto gravi per i quali uno può prendere anche 3, 4, 5 anni, reati gravi, voglio dire, per i quali invece non fa un giorno di carcere, nel senso fa la detenzione domiciliare. Le sembra una cosa, un messaggio giusto? Io vorrei sapere quali sono questi reati gravi che, diciamo, hanno nel codice la pena incessore. Il problema non è la pena data dal giudice nel momento, il problema è la pena prevista nel codice. Però il provvedimento prevederebbe, insomma, sulla pena. Tinti, poi dopodiché non voglio difendere io il provvedimento del governo, ma dico un'altra cosa. Allora, se per esempio l'ex giudice Tinti, ma tanta gente che su questo terreno ha delle parole dure, io vorrei che però venissero a fare con noi un giro nelle galere e vedessero quanta gente povera c'è dentro, quanta gente con problemi psichiatrici c'è dentro, quanta gente che non c'entra niente col carcere lì c'è dentro. Io ho incontrato un senegalese che ha accumulato 12 anni di carcere per vendita di CD contraffatti. È un problema di sicurezza? Evidentemente questo no. Bruno Tinti, quando gli operatori del carcere... Bisogna uscire dalla retorica e parlare di cose concrete. Sì. Allora... Però è vero che in carcere è vero che ci sono molte persone che sono, tra virgolette, dei poveracci che non sono in grado di difendersi. Solo poveracci sono, ma il problema è proprio quello. Il problema è dato dal fatto, ma io continuo a dire che Gonnella ha ragione, ma non si può affrontare il problema nell'ottica di Gonnella. Il problema è dato dal fatto che in carcere ci sono solo extracomunitari e piccoli spacciatori. Il carcere è un fast food, si entra e si esce, stanno lì una settimana, 10 giorni, 15 giorni, sono tutti in carcerazione preventiva, il processo ancora non è stato fatto. Quando viene fatto, nella maggioranza dei casi, questa gente è fuori da un pezzo. In carcere i definitivi, diciamo così, quelli che hanno avuto una condanna in Cassazione, sono una piccola minoranza della delle persone. Questo che Tinti ci sono. Non è il vero scandalo all'italiana, cioè la maggior parte di quelli che sono in carcere sono in attesa di giudizio. Certo, e naturalmente che lo è, e su questo Cunnella ha ragione. Io ho scritto molti articoli spiegando, per esempio, che la lotta alla droga non si fa con il carcere, per l'ottimo motivo che, come ha detto anche l'ONU, mettere in prigione gli spacciatori significa intervenire sullo 0,05% del traffico di droga, cioè è una lotta priva di senso. La droga va liberalizzata, per l'ottimo motivo che noi non siamo in grado di combatterla. E allora è evidente che nel momento in cui noi non abbiamo i piccoli spacciatori in carcere, ma solamente quelli che fanno associazione a delinquere per traffico di droga, allora è il posto per mettersi dentro le persone come Previti o gente come lui, evidentemente lo troviamo. Cioè il problema è ripensare i reati per cui si deve intervenire con la sanzione carceraria. Vabbè, stamattina Bruno Tinti, lei si è svegliato con Previti nella testa, no? per fare un esempio, chiaro. 15 anni di processi perché una persona finisca a casa sua. Allora facciamo così, andiamo a sentire un attimo la pubblicità, tra 5 minuti riprendiamo. Qualcuno l'ha già definito questa una sorta di indultino, ma come? Uno prende una condanna fino a 6 anni, invece di andare in carcere se ne passa tranquillamente, tra virgolette, insomma, a casa in detenzione domiciliare. C'è chi invece in Parlamento ha depositato una proposta vera e propria, non di un indultino tra virgolette, ma di un indulto vero e proprio, cioè ricordate le polemiche, l'indulto. Chi ha proposto è l'onorevole Sandro Gozzi del Partito Democratico, che tra poco sarà con noi, che ha proposto invece ci vorrebbe un indulto e ci vorrebbe anche l'amnistia. 24 mattino. Allora, 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Stiamo parlando del problema del sovraffollamento delle carceri in Italia. C'è questo provvedimento del governo che adesso andrà in discussione probabilmente mercoledì anche al Consiglio dei Ministri. Si prevede, tra le varie ipotesi, quella di far scontare a chi ha una condanna fino a 6 anni di carcere, di far scontare questa pena ai domiciliari. Con noi è rimasto Bruno Tinti e voglio salutare invece chi ha introdotto in Parlamento, vuol fare un passo in avanti ulteriore, quello che politicamente, per la verità, non ha riscosso molto successo nell'opinione pubblica qualche anno fa, se ricordate, vale a dire la questione dell'indulto. Saluto l'onorevole Sandro Gozzi del Partito Democratico. Buongiorno onorevole. Buongiorno a voi. Senta, lei dica la verità, vuole un po' provocare con questa proposta dell'indulto e di un'amnistia? Cioè, le chiedo questo, che segnale dà la politica che non sa risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri, che è un problema, e lo fa come ogni tanto periodicamente, proponendo l'indulto e l'amnistia come lei propone in Parlamento? Ma guardi, io credo che più che per la politica italiana, che in gran parte ha dimostrato in questi 20 anni l'incapacità a fare alcunché, non solo a risolvere il problema delle carceri, dobbiamo preoccuparci della illegalità crescente europea dell'Italia. L'Italia è uno stato considerato criminale e direi che se fosse una persona fisica si direbbe anche che è uno stato recidivo, perché l'Italia è stata condannata più volte, ma quando dico più volte non dico 2 o 3 sentenze, sì, dico centinaia di sentenze dalla Corte Europea dei Diritti Umani, perché ha violato costantemente, attraverso le carceri ma attraverso anche a vari aspetti della giustizia, ad esempio il processo lento, sì, i diritti fondamentali, certo. E questo è un dato di fatto. Ogni momento sottopone almeno 30.000 persone, cioè di eccedenti rispetto alla capacità. Le carceri hanno una capacità di circa 47.000 posti. Sì, e ce ne sono, ce ne sono, secondo le cifre, secondo il governo 20.000 è di troppo, secondo Antigone, l'associazione Antigone, 30.000 di troppo. Comunque ci sono tra le 20.000 e le 30.000 persone che sono sottoposte nel, e questo è un dato di fatto, è un dato di fatto incontrovertibile. Allora, ma affrontiamo il tema. Appunto, la risposta è un indulto, è l'amnistia? La risposta è una riforma profonda e strutturale del sistema della giustizia, di cui la proposta di amnistia e indulto, ricordo che quello che fu fatto nel 2006 era semplicemente l'indulto, e ricordiamolo per chi ci ascolta che l'indulto serve a far estinguere la pena, ma non, sì, cancelli il reato, cioè certo, non libera abbona un po' di persone, chiaro, non libera le scrivanie dei magistrati. mentre l'amnistia libera anche le scrivanie dei magistrati, che sono, in cui ci sono 5 milioni e 300 mila processi pendenti, perché estingue anche il reato. Qual è la nostra, dico la nostra perché il collega Manconi ha fatto una cosa, un'iniziativa identica e parallela al Senato. Questo deve rispondere innanzitutto alla illegalità europea dell'Italia crescente. Ricordo che noi abbiamo adesso un anno, cioè entro un anno, noi siamo messi in mora per la Corte Europea dei Diritti Umani, e entro un anno dobbiamo trovare una soluzione. Sì. Soluzione che secondo me deve essere strutturale e quindi deve esserci tutta una riforma. No, ma chiaro, strutturale, cioè in attesa della riforma però bisogna risolvere il problema contingente e quindi fare un indulto e amnistia. Questo lei dice in sostanza. In pratica è un punto interessante. Prima della replica di Tinti, sentiamo un ascoltatore, Simone dalla provincia di Roma. Simone, buongiorno. Sì, buongiorno Alessandro. Senta, no, sostanzialmente volevo dire che finché i nostri politici e i nostri burocrati ben pensanti legifereranno in questo modo, l'Italia... No, si è persa una parola. Finché legifereranno? Si è persa questa parola dal cellulare? Finché? Sì, legifereranno in questo modo. Sì. L'Italia continuerà a svolgere una funzione di magnete nei confronti della delinquenza di tutto l'Est Europa e del Maghreb. Io conosco stranieri che dicono senza paura che ai delinquenti dei loro paesi conviene venire qua in Italia, perché tanto in ogni caso la faranno franca. E poi volevo porre due questioni. Però non confrontiamoci, se bisogna fare il confronto con paesi nei quali i diritti dei detenuti sono ancora più violati dei nostri, non è, come dire, un confronto positivo, non bisogna mai confrontarsi con paesi dove... Sono violati, però in qualche modo esiste una punizione a fronte di reati, mentre qua in Italia ormai non esiste più. Non esiste adesso più, mi sto recando in un casale che ho, io devo sperare che nessuno mi abbia rubato gli ascendenti di rame e le cose, perché lo fanno liberamente. Beh, se li prendono li condanneranno, insomma. Però assolutamente non li condannano, li lasciano andare dopo uno o due giorni e continuano a fare i loro comodi. E poi volevo porre due piccole questioni. Sì. Allora, i signori burocrati o politici, perché poi alla fine le leggi le fanno i burocrati che stanno al Parlamento, no? Hanno pensato per esempio al sovraccarico che verrà posto sulle forze dell'ordine, perché questi arresti domiciliari dovranno essere in qualche modo controllati, oppure ci si fida ciecamente che queste persone rimarranno a casa loro a godersi gli arresti domiciliari? Questo è una cosa, è un punto interessante. E poi volevo anche suggerire a questo punto, visto che siamo arrivati ormai a questo, di pagare, perché no, l'affitto o il mutuo alle persone che stanno agli arresti domiciliari. Questa è una provocazione. La prendo come una provocazione. No, Simone, grazie. No, ma grazie. Aspetti, mi faccio andare da Bruno Tinti, che sennò poi andiamo troppo oltre. Bruno Tinti vuole, insomma, l'onorevole Gozzi dice bisogna fare una grande riforma della giustizia. Nel frattempo, visto che ci pendono sull'Italia condanne a grappoli da parte degli organismi europei, bisogna fare qualcosa, e un qualcosa è indulto e amnistia. Sì, questo discorso lo stanno facendo da 40 anni, nel frattempo di riforme non ne hanno fatta manco una, ma di indulti e di amnistia una quindicina. Allora, se fosse una proposta seria, non pelosa, diciamo così, io ci starei anche. Facciamo però che dall'indulto e dall'amnistia vengono esclusi i reati contro la pubblica amministrazione e i reati fiscali, che rappresentano come popolazione carceraria una percentuale trascurabile. Per esempio, per reati fiscali non c'è nessun detenuto per soli reati fiscali, e per reati di corruzione, concussione, peculato ci saranno 15 persone, 50 persone. Benissimo, allora facciamo un'amnistia e un indulto per i poveracci, per tutti quelli che hanno rubato il CD e che vengono messi in prigione, sa, quando si va a fare il taccheggio nei supermercati. Sì, sì. Però quelli che si sono fregati miliardi di lire, di euro, con i reati tipici della classe dirigente del paese, quelli li teniamo in prigione, dove a questo punto ci sarà un sacco di posto. Non andrebbe bene, però guarda caso, queste amnistie e questi indulti non prevedono mai nessuna esclusione, e chi ne beneficia davvero sono i reali delinquenti, quelli che soffocano il paese. Insomma, lei giustamente, lei giustamente pone sempre l'accento su questo squilibrio, cioè che poi i poveracci sono quelli che non sono tutelati anche da questo tipo di interventi legislativi, invece quelli che delinquono veramente con i reati della pubblica amministrazione, i reati fiscali, quelli che rubano miliardi, invece ne beneficiano sempre. È un punto interessante. Onorevole Gozzi, dopo il traffico deve rispondere su questo, cioè Bruno Tinti dice: sarei d'accordo su questa proposta messa in questi termini. Allora, le 8 e 47 minuti, l'ultima parte di 24 mattino. Prima della replica dell'onorevole Gozzi, fatemi sentire un altro ascoltatore, Mario dalla provincia di Roma. Buongiorno Mario. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Dica. Io faccio il volontario in carcere da oltre 10 anni. Il mio auspicio da volontario è quello che questo decreto cancellieri non diventi come la legge, l'ultimo decreto svuota carceri, chiamata legge 199, che permetteva l'uscita entro l'anno della condanna definitiva, cosa che purtroppo non essendo un automatismo veniva naturalmente delegata a tutta la parte precedente di magistratura di sorveglianza e di chiamato in codice, diciamo così, UEPE, che sarebbe l'ufficio esecuzioni pene esterne, che con la loro valutazione naturalmente si perdevano un ulteriore tempo, ma non perché è una perdita di tempo ai ruoli che si devono fare alle valutazioni. Vabbè, cioè, lei cosa vorrebbe di questo decreto? Intanto non vorrebbe che fosse un automatismo, ma cosa ne pensa? No, vorrei che fosse. Certamente, perché in modo tale che legata a una singola valutazione, cioè dell'abitazione che sia effettivamente quella dove possa stare, oppure chi non ha un'abitazione propria, una struttura correlata e via, finito quello uscisse e andasse in detenzione. Quindi per lei è una cosa giusta, cioè prevedere una condanna fino a 6 anni da scontare ai domiciliari piuttosto che in carcere. Grazie Mario che fa il volontario in carcere. Onorevole Gozzi, allora l'accusa di Tinti è questa, è una proposta pelosa perché va a far beneficiare tutti quei reati, no, fiscali contro la pubblica amministrazione, invece non ne beneficiano i poveracci che affollano le carceri. Allora fate il contrario, liberate le carceri dai poveracci e mettiamo in carcere quelli che invece rubano i miliardi. Ma evidentemente, capisco, sono tante proposte di legge, evidentemente la nostra proposta di legge non l'ha letta, perché innanzitutto prevediamo dei tetti massimi, l'amnistia è prevista solo per i reati con una pena di reclusione fino a 4 anni, l'indulto fino a 3, innanzitutto. Secondo luogo, si prevede l'esclusione dell'applicazione di amnistia e di indulto per i reati che sono lesivi di beni giuridici di un rango costituzionale particolarmente elevato, e quindi ci sono vari aspetti legati alla PA e legati al fisco che sono esclusi. Terza cosa che ho sentito errata, si è detto che si continuano a fare amnistie e indulto. Io ricordo che i provvedimenti di amnistia e di indulto sono stati dal 1948 al 1992 40, dal 1992 a oggi un solo caso di indulto, 2006, quindi accusare la politica in questi anni di avere fatto unicamente amnistia e indulto è storicamente errato. Però c'è un altro aspetto che avete trascurato, che oggi c'è un'amnistia e un indulto permanente per i ricchi, per chi si può permettere, bravi avvocati che grazie alla sciagurata legge Cirielli, che va abolita, riescono a far andare in prescrizione i processi. Ogni anno c'è un'amnistia mascherata di 170.000 processi in prescrizione, quindi i ricchi, chi si può garantire l'avvocato, certamente fa andare in prescrizione, i poveracci se ne vanno dentro. Allora, quando noi parliamo di riforma strutturale della giustizia, evidentemente parliamo anche di abrogare la Cirielli, parliamo di modificare la Bossi-Fini, ricordo, legge sull'immigrazione che prevede il reato di clandestinità, sì, probabilmente uno dei pochi casi in Europa, di abrogare la Fini Giovanardi, sì, piccola detenzione. Sì, però onorevole Gozzi, no, no, ma certo, che il provvedimento... Ma voi volete vendicarvi dal carcere, il carcere non è vendetta, no, sociale, ma no, no, io non mi... Il carcere è rieducazione, no, no, e rispetto ai guardi, diritti fondamentali. No, ma qua, no, io non mi voglio vendicare, non mi voglio vendicare niente, però onorevole Gozzi, quell'accusa che viene fatta alla politica è che mentre voi dite ci vuole una grande riforma che prevede tutte queste cose, abrogare le leggi eccetera, che prevedono degli squilibri, intanto facciamo l'indulto all'amnistia, quello che passa, lo sa anche lei, sarà stato solo uno negli ultimi anni, è che intanto passa l'indulto come nell'ultima volta e queste riforme rimangono sulla carta, rimangono promesse, perché la ma non per colpa sua, perché la politica non riesce a fare più nulla, nulla, non fanno più nulla, sono tutti bloccati da veti incrociati, non si riesce ad approvare nulla, questo è il punto. Bruno Tinti, è questo che lei voleva rimarcare? Non solo è questo, e la ringrazio di averlo detto così bene, ma guardi che l'indulto è una truffa, nel senso che l'indulto opera sulle pene fino a 3 anni. Questo significa che se una persona è condannata a 5 anni di prigione, diciamo così, dovrebbe andare in prigione? No, 3 anni sono indultati, gli altri 2 si fa gli arresti domiciliari. Capisce? Cioè, regolarmente questa tagliola dei 3 anni porta le pene residue a un livello talmente ridotto che sono prive di affettività. Sì. Però lei, Bruno Tinti, dice sempre si fa i domiciliari come se fosse dopo. Allora Gozzi dice: beh, ma voi volete la vendetta del carcere? Come se il domiciliare fosse una fosse andare in hotel a 5 stelle. Ha fatto i conti dei danni arrecati alle parti offese, ma la pena sarà anche un castigo. Qualcuno che ha messo sotto i bambini piccini guidando ubriaco dovrà stare o no in prigione? Non è vendetta, ma è sanzione. I domiciliari non sono una sanzione adeguata. Certo, onorevole Gozzi, no, però la questione è noi non vogliamo la vendetta di nessuno, per carità, il carcere non deve essere vendetta e rieducazione, però dice Bruno Tinti un certo castigo, una certa punizione, una pena da scontare ci deve essere, perché sennò che messaggio dà alla società uno Stato che non riesce a punire una persona, che non vuol dire torturarla o farla vivere come una sardina, questo no, lo ripeto, però punirla per un reato. Ma io sono d'accordissimo con quello che dite. Sono d'accordissimo. Il problema è che la Repubblica Italiana non riesce a fare, a causa di una giustizia che è rimasta bloccata per 20 anni, in uno scellerato scontro tra berlusconiani e anti-berlusconiani, perché in Italia parliamo di giustizia da 20 anni e non abbiamo fatto un bel niente, a causa di questo oggi la Repubblica Italiana non riesce veramente a punire i criminali, perché tanti criminali la fanno franca attraverso la prescrizione, e invece punisce i poveri cristi, e loro invece la prescrizione non riescono ad averla, e non solo li punisce, però la soluzione, secondo la Corte Europea dei diritti umani, e questo è sbagliato, ma la soluzione della politica è invece di punire ma la soluzione della politica finora è stata, siccome non riusciamo a fare in modo di punire le persone che dobbiamo punire, almeno laviamoci la coscienza e liberiamo giustamente da una situazione inaccettabile i poveri cristi che sono in carcere. Invece se si trovasse una soluzione, io credo, a dire diamo il modo di punire davvero quelli che devono essere puniti, oppure costruiamo le carceri in modo che tutti stiano con i diritti rispettati nelle carceri, forse sarebbe una soluzione diversa. Comunque il tema è molto aperto e lo riaffronteremo. Io intanto vi ringrazio perché devo chiudere. Bruno Tinti, ex magistrato editorialista del Fatto Quotidiano, e l'onorevole Sandro Gozzi del Partito Democratico, così come ringrazio Patrizio Gonnella che è stato con noi, presidente dell'associazione Antigone. In apertura, che dire, da Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi e anche dal nostro alpino Peter Bescapella, l'appuntamento ovviamente è rinviato a domattina. Potete seguirci su Facebook, su Twitter, siamo così 24 mattino, io invece ho il mio profilo, sono Alino Milan, siamo anche su radio24.it e niente, e vi diamo appuntamento domani alle 6:30.